È vero. Sì, è vero, amore vero, esistono gli angeli. È vero, amore, è vero, io credo ai miracoli. Ognuno mi estende la mano, ognuno mi offre una rosa, le strade, la folla, ogni cosa è bella con te. È vero, amore vero, mi sento rivivere. Il mare, il cielo, il sole, è tutta una musica. Ho l'anima piena di luce, io amo, io sono felice. È vero, è un miracolo, è vero, amore sei tu. Amore vero, mi sento rivivere. Il mare, il cielo, il sole, è tutta una musica. Ho l'anima piena di luce, io amo, io sono felice. Ma è vero, amore sei tu. È vero.